Me la ricordate la domanda del quiz? A che velocità viaggia il suono nel vetro quando il mezzo di propagazione è il vetro? Abbiamo visto che nell'aria era 330 metri al secondo. Allora, attenzione, il suono viaggia meno velocemente nei mezzi densi che in quelli meno densi e quindi se ne potrebbe ricavare che nel vetro il suono viaggi più lentamente che nell'aria. Ma poi si verifica sperimentalmente la seguente cosa, e cioè che il suono viaggia decisamente più velocemente nei mezzi rigidi e nel vetro questa velocità, il vetro è rigidissimo, questa velocità è fra i 4.000 e i 5.000 metri al secondo, nel granito 6.000 metri al secondo, nel legno di quercia 3.800 metri al secondo e nella grafite infine, ebbene qui abbiamo un top, 18.000 metri al secondo, cioè 18 km al secondo. Quindi la risposta esatta al quiz era 4.000 metri al secondo.